Questa musica si chiama vita, l'hai già sentita. Ci pensi se le margherite non avessero petali pari? Così mi ami, così mi ami. E poi mi ami, quindi mi ami. Ma se mi ami, e l'amore, l'amore, l'amore mette sempre a posto le cose. E io stasera ti aspetto davanti al portone, perché se scendi te, ti chiedo se, se, se vieni a ballare con me. La luna è una pista da ballo, retro supersonico dance. Di te io non sono mai stanco, e dammi le tue mani, facciamolo adesso. E se non so i passi mi butto lo stesso. Balliamo io e te, tutta la vita è una notte soltanto. Mi accendi la radio, entusiasmo. Perché non lavora più nessuno, se c'è una pillola per la felicità, sai che quasi quasi l'assumo. Ho sete, tanta sete di comete, e tanta fame di mele Eden. E mentre tutto si prosciuga il mare scende, qui la benzina aumenta sempre. E l'amore, l'amore, l'amore cambia ancora il nome alle cose. E io stasera ti aspetto qui sotto al balcone, perché se scendi te, se, se, se vieni a ballare con me. La luna è una pista da ballo, retro supersonico dance. Di te io non sono mai stanco, e dammi le tue mani, facciamolo adesso. E se non so i passi mi butto lo stesso. Balliamo io e te, tutta la vita è una notte soltanto. Mi accendi la radio, entusiasmo. Che mi piaci, da uno fino a dieci, almeno dieci, almeno dieci. Riempiamoci di baci e poi da capo. Pensavo di essere dentro un sogno e mi aumentava il battito. Mi sono innamorato in meno di un secondo ed è bastato un attimo. Oh oh oh.